Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, Europa 24, che riparte ancora una volta dall'est. Il tema è l'Ucraina, la citazione di Angela Merkel che poco fa ha comunicato una nuova puntata, se vogliamo, del conflitto, almeno di parole, e con tra Berlino e Mosca. Una Merkel molto dura nei giorni scorsi nei confronti appunto del Cremlino. Oggi Merkel che dice: la Germania è perfettamente consapevole del fatto che la sicurezza in Europa, almeno nel lungo termine, non possa essere garantita senza la Russia. Così Angela Merkel in visita in Polonia, dunque di fatto nel cuore del conflitto e della complessità di un'Ucraina che ovviamente confina per molti chilometri con la Polonia. Ecco, a proposito di conflitto nell'est, da metà aprile questo conflitto che oppone i separatisti prorussi sostenuti da Mosca e il governo ucraino ha provocato 4.317 morti. Questo è il bilancio fatto da Ginevra. In questo numero sono compresi anche i 298 passeggeri e membri dell'equipaggio del volo MH17 della Malaysian Airlines abbattuto a luglio. E a questo numero, quindi di 4.317 vittime ufficiali, si aggiunge un pesantissimo bilancio dei feriti. Si parla di 9.921 feriti. E ora invece parliamo dei rapporti tra Europa e Africa, in particolare l'epidemia di febbre emorragica Ebola, che a sua volta ha provocato 5.420 morti in 6 paesi africani, più gli Stati Uniti e la Spagna, su un totale di 15.145 persone infettate. Questo è il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma sentiamo il servizio di Cristina Carpinelli. I paesi colpiti da Ebola non possono essere lasciati soli a gestire l'epidemia. A dirlo, dopo un viaggio in Liberia, Sierra Leone e Guinea, il commissario europeo responsabile per la salute, Christos Stylianides. Stylianides è anche il coordinatore Ebola per l'Europa e ha ribadito dunque la necessità di mobilitare gli stati membri e arrivare a un importante invio di personale medico. Servono figure competenti oggi, non domani, ha detto il commissario nel corso di una conferenza stampa dopo il suo ritorno a Bruxelles. Today, non tomorrow. Economicamente l'Unione Europea ha investito circa 1,1 miliardi di euro per combattere il virus, ma servono ancora tanti aiuti, soprattutto a lungo termine. Durante la nostra missione abbiamo visto che in realtà non ci sono ancora abbastanza dottori, medicine, acqua, servizi sanitari, e faccio appello a tutti i ministri della salute europei perché mandino nuovi aiuti, ha continuato Stylianides. Il numero dei decessi causati dall'epidemia di febbre emorragica Ebola in 6 paesi africani è salito intanto a 5.420 su un totale di 15.145 persone infettate dal virus. A comunicarlo è l'ultimo bilancio diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avverte che i numeri sono con tutta probabilità sottostimati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La crescita in Europa. Il gruppo socialista al Parlamento europeo propone un piano di investimenti europei del valore di 800 miliardi di euro per il periodo 2015-2020, quindi una sorta di rilancio rispetto ai 300 miliardi, subito però, promessi dal Presidente della Commissione europea Juncker, che peraltro dovrebbe presentare questo piano proprio nel prossimo vertice di dicembre a Bruxelles. Questa sera ne parleremo anche con Simona Bonafè, eurodeputata del Partito Democratico e membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza. Le abbiamo chiesto un'anticipazione appunto sui 300 miliardi annunciati da Juncker. Cioè, gli investimenti pubblici nell'ultimo periodo con la crisi sono crollati, cioè nel 2009 in tutta l'Europa si sono investiti 300 miliardi di risorse pubbliche, nel 2013 270, questo per darli due ordini di grandezza. E se levassimo a questi denari, diciamo, le risorse della politica di coesione, avremmo cifre molto più basse, per cui tutto questo per dire che i 300 miliardi sono un buon inizio, tutto questo per dire anche che sono una conquista importantissima della presidenza italiana. Bene, con questo è tutto. Era Simona Bonafè, eurodeputata per il Partito Democratico. Europa 24 torna stasera e domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.